dentro tu vivi. La calma astratta del tuo richiamo la calpesto. A violare i segreti del tuo canto nervoso. Per quanto io possa viandare il Mediterraneo ci riunirò. Corri nella notte. Sirene.